Beh, sai, intanto secondo me c'è da fare un chiarimento in Parlamento, cosa che mi sembra obbligatorio, ovviamente sulla base anche di quelle che saranno le indicazioni del Capo dello Stato. Deve essere una crisi chiara. Una crisi, nel senso, cioè, che si deve capire nel Paese le ragioni di questa crisi, le motivazioni che hanno indotto coloro che l'hanno provocata a farla, e questo è il modo innanzitutto per cercare di capire poi cosa si deve fare. Su cosa si deve fare io ho un'idea abbastanza chiara.